cintura, cintura, cintura, cintura, dale, dale, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale, dale, dale, dale, dale. Dale. Como Gabriel.